Torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa. Abbiamo una telefonata dall'università. Pronto? Ci senti? Ciao, pronto. Buongiorno, buongiorno a tutti i compagni. Vi volevo raccontare, sono stato testimone in questo momento di una feroce carica della Celeri agli studenti universitari che stavano protestando sotto al rettorato. C'era stato un corteo alla Sapienza. Alla Sapienza di Roma, chiaramente. C'è stato un corteo che ho visto, era molto partecipato, gli studenti che presumo partiva da Lettere, da quelle parti, si stanno avvicinando verso il rettorato, non era successo praticamente niente di particolare, a parte qualche fumone colorato, e a un certo punto di corsa sono arrivati blindati da fuori e a freddo hanno caricato i manifestanti. E ho visto nettamente uno studente con la testa ferita, che adesso ce l'ho di fronte, che è stato fermato dalla polizia, e altri manifestanti portati via. Adesso praticamente c'è la cella schierata che ha allontanato tutti i compagni manifestanti da sotto il rettorato, però sento ancora, non so se sentite, sì, sì, qualche sentiamo forma di resistenza degli studenti, che sono tanti, comunque vedo tanti arrabbiati, e purtroppo c'è anche tanta polizia. Tu ora sei davanti al rettorato in questo momento? Davanti al rettorato, cioè, di fronte a me vedo proprio almeno due fermati, uno ferito, che stanno ancora in mezzo a un gruppo di poliziotti in borghese, penso, qualcosa del genere. E poi c'è di fronte tutta la cella schierata, gli studenti che stanno facendo delle pseudo barricate con delle ringhiere che ci sono qua all'università, e c'è stato adesso un testa a testa, un fronte a fronte, non so come definirlo. Va bene. Va bene. Senti, adesso, noi ti ringraziamo, cercheremo insomma di contattare poi studenti e studentesse direttamente. Comunque i microfoni Radio Onda Rossa sono aperti, chiamate insomma. Va bene, se vedo qualcosa, ok, vi richiamo, grazie. Grazie a te, ciao. Ciao a tutti.